importante, che è quella col restauratore Ross Lipman, che ha restaurato le pellicole di John Cassavetes, Bruce Conner, Charles Burnett stesso, e che lavora soprattutto a Los Angeles. Di qui è nato appunto il progetto di questo tentativo di portare anche in Italia delle pellicole che non sono, purtroppo non ancora conosciute, ecco. Dal tuo punto di vista, quali sono i pregi di Ornette Made in America? È un film che riflette soprattutto con un linguaggio sperimentale quello che è stato il free jazz, quindi non è un documentario tradizionale, come diciamo legato a un linguaggio di quello che è un po' l'abitudine del documentario, teste parlanti e una narrazione un po' più lineare, ma è proprio il tentativo di esplorare la musica di Ornette, la vita di Ornette dagli anni 60 agli anni 80, anche utilizzando proprio un linguaggio cinematografico più sperimentale. E questo, di questo Shirley Clarke è stata appunto, ha fatto scuola non solo con Ornette ma con altre pellicole come The Connection e Portrait of Jason. Senti, il restauro quali interventi ha previsto? Il restauro è stato meno difficoltoso di altre pellicole, come ad esempio Portrait of Jason. Ha richiesto, è stato un restauro condotto dalla UCLA Film and Television Archive da Ross Lipman, che ha restaurato anche The Connection. E, è stato poi presentato questo restauro qualche anno fa alla Berlinale e in seguito in moltissimi cinema e musei internazionali, e in Italia appunto cerchiamo di portarlo con questa versione restaurata di nuovo, il film di Ornette, in alcune sale d'essai. Tornando a Shirley Clarke, qual è il peso della sua opera? Shirley Clarke è stata riconosciuta da moltissimi autori come una regista importantissima, appunto in grado di non solo sperimentare con la materia del cinema, ma anche di esplorare alcuni temi importanti e alcuni soggetti importanti. Era molto attenta al tema delle minoranze, ha lavorato tanto nel cinema afroamericano e ha sperimentato tanto anche col video negli anni 80, quando ancora era qualcosa di pionieristico. Shirley Clarke è stata stimata da John Cassavetes, da Ingmar Bergman, da autori molto importanti, Jonas Mekas stesso, e purtroppo però in qualche modo non è stata riconosciuta neanche dalla critica fino a qualche anno fa come un'autrice di questa importanza, di questo peso. Senti, le uscite che avete in programma cosa prevedono riguardo alla sua figura? Abbiamo iniziato con una proiezione a Filmmaker Festival a Milano lo scorso dicembre e proseguiamo ora con una proiezione alla Apollo 11 di Roma, che sarà introdotta da Antonia Tessitore Pino Saulo, Dibattiti Radio 3, e proseguiremo al Cinema Beltrade di Milano, a Chiasso, al Festival di Cultura e Musica Jazz, a Boldini Sound Jazz di Ferrara, poi a Torino al Museo Nazionale del Cinema e così via, in altre sale. Questo per quanto riguarda Ornette, ma successivamente promuoveremo un'altra pellicola jazz di Shirley Clarke, che è The Connection, e in programma ci sono anche non solo la distribuzione dei suoi lungometraggi sempre in versione restaurata, ma questo progetto di distribuzione di cortometraggi sperimentali meno famosi, meno celebri, ma altrettanto importanti. Ne cito uno perché verrà proiettato adesso a Film Forum di Gorizia e a Cinema Zero di Pordenone, che si chiama Brussels Loops, che sono una collezione di cortometraggi che vennero presentati all'Expo di Bruxelles del 1958, e regista fu Shirley Clarke insieme a Penny Baker, che è un altro grande nome regista, e questi cortometraggi sono sonorizzati da Maria Teresa Soldani. Ok. In conclusione, Letizia, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, il sito è, come la mia casa di distribuzione, www.readingbloom.com, e sono attive chiaramente le pagine Facebook e Instagram, dove trovare aggiornamenti sulle proiezioni in corso. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Credi, grazie mille Federico, grazie. Ciao. Il cinema continua su Radio Onda Rossa, infatti.